TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Fincantieri consegna la Star Princess, nuova nave alimentata a gas naturale liquefatto, la cerimonia a Monfalcone. Porto di Trieste, sciopero USB contro la nave che fa rotta con Israele, la porta container è ripartita all'alba, sciolto il presidio al varco del Molo Settimo. Sciopero del tifo per Italia-Israele allo Stadio Friuli, la proposta da alcune associazioni del territorio e dal garante dei detenuti di Udine, nostra intervista. Mobilitazione per la finanziaria, CGIL in assemblea con 300 delegati a Udine. Alla via Next a Trieste, tre giorni fra i temi della scienza e della tecnologia con i migliori divulgatori. Denatalità a Pordenone e allarme per il minimo storico, un convegno su educazione sessuale e fertilità. Opere d'arte e parodie ispirate a grandi autori realizzati con intelligenza artificiale, a Codroipo un'asta, tutta da ridere. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrea Saule. Nello stabilimento di Monfalcone, Fincantieri consegna all'armatore la Star Princess, gemella della Sun, alimentata a gas naturale liquefatto. Dopo i primi viaggi nel Mediterraneo, sarà destinata al mercato statunitense, principalmente per le crociere nei mari dei Caraibi. La nave può accogliere poco meno di 6.000 persone tra passeggeri ed equipaggio. È in corso la cerimonia appunto nello stabilimento monfalconese, una polemica su costo del lavoro e tecnologia in queste battute della cerimonia. Sentiamo. La Star Princess viene consegnata oggi, esattamente a un anno dal varo tecnico. Questo gigante lungo 435 metri passa ufficialmente di mano dal costruttore Fincantieri all'armatore Princess Cruises, compagnia americana del gruppo Carnival. Dopo un paio di settimane nel Mediterraneo si dirigerà verso l'altro lato dell'Atlantico. Si tratta della 17ª nave della flotta dell'azienda, la più grande di tutte insieme alla gemella Sun Princess, già costruita qui e consegnata l'anno scorso. Tra gli aspetti innovativi c'è l'alimentazione. La nave si muove principalmente grazie al gas naturale liquido. Solo in seconda battuta entra in funzione il gasolio, la soluzione del GNL permette di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di abbattere drasticamente alcuni inquinanti tipici della combustione del gasolio, con grandi benefici di quelle città come Trieste, dove le crociere stazionano non lontano dalle case. In corso la cerimonia di inaugurazione, l'amministratore delegato Pierroberto Folgiero nel suo discorso ha esordito dicendo che bel progetto, con Carnival faremo le navi più grandi mai costruite da Fincantieri, grazie a una gru acquisita di recente, aggiunto. Monfalcone è un cantiere che crescerà e ha smentito la retorica di un'azienda che si basa sul basso costo, rispondendo così alle critiche avanzate dal sindaco Luca Fasan sempre sul palco dell'inaugurazione. Fasan ha chiesto all'azienda di modificare il suo modello produttivo, a suo dire troppo basato sull'appalto e sulla manodopera economica. Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Restiamo in porto, ma andiamo a Trieste, la nave MSC Melani III, un'unità commerciale che fa rotta con Israele, ha lasciato il porto. L'unione sindacale di base tuttavia ha confermato una giornata di sciopero generale all'interno dello scalo. Nella mattina di oggi, attorno alle 6, un presidio si era formato all'esterno del varco 4, alcune decine di persone, una presenza pacifica senza il blocco del movimento dei veicoli. Presidio che si è sciolto dopo un paio d'ore, dopo che la stessa USB aveva informato che la nave era già ripartita nella notte in direzione di Ravenna e Venezia, per poi andare verso Haifa in Israele. Secondo Sasha Colautti dell'USB, la sosta dell'unità commerciale israeliana è durata circa 12 ore. Una nuova toccata della stessa nave, che secondo Colautti trasportava anche sistemi d'arma, è prevista per l'11 ottobre. USB ha chiesto un incontro ufficiale con le istituzioni e con l'autorità portuale sul ruolo di Trieste e sui rapporti con dello scalo con Israele. Chiede delucidazioni anche la CGIL sul passaggio di armi in porto, chiediamo al governo nazionale e quello regionale di applicare le leggi esistenti e di dimostrare la piena trasparenza sui traffici di questa natura che toccano la nostra regione. Si legge nella nota, da un lato perché esiste il diritto individuale di obiezione di coscienza come sancito dalla Corte Costituzionale e dall'altro perché i cittadini di questa regione hanno tutto il diritto di sapere se e in quale misura sono diretti soggetti indiretti complici di atti contrari alla loro coscienza. Sempre più rappresentata intanto la posizione sul rinvio della partita di calcio Italia-Israele valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 in programma allo Stadio Friuli il 14 ottobre, ma c'è anche chi invoca una sorta di sciopero del tifo. Questa mattina a Udine una conferenza stampa dal titolo Stadio Vuoto, alla quale hanno partecipato tra gli altri il presidente del Centro Balducci di Zugliano, Paolo Iannaccone, e il garante dei detenuti di Udine, Andrea Sandra. Abbiamo intervistato quest'ultimo. Noi, insieme ad altre associazioni che si occupano di diritti umani, abbiamo ritenuto di fare questa iniziativa, cioè lanciare un appello affinché le persone non vadano a vedere la partita e quindi non partecipino a uno spettacolo che francamente ci si poteva tutti risparmiare. Chiediamo che appunto ci sia una diserzione rispetto alla visione della partita, alla partecipazione di quell'evento, anche per le persone che stanno a casa, insomma. E contemporaneamente stiamo tentando di organizzare un concerto che sia in continuità con il corteo che sta invece organizzando molto bene, devo dire, il Comitato Pro Palestina, e quindi fare una cosa in continuità e in collaborazione con loro. E da questo punto di vista ci aspettiamo, e qui sta l'appello, ci aspettiamo che il Comune, le istituzioni comunali, la Giunta, ma io devo dire con l'adesione anche di consiglieri di minoranza, perché insomma la questione riguarda tutti, e si possa organizzare questo concerto. Chiediamo infine che il Presidente Gravina destini gli introiti dei diritti televisivi a un'associazione umanitaria, per non è per motivi compensativi rispetto al fatto di aver comunque promosso lo svolgimento della partita, ma crediamo che sia un atto politico importante per in un certo senso, concretamente, finché si può, rimettere un pochino a posto le cose. Sembra che la UEFA vada verso l'esclusione però di Israele. Sì, beh, questa è una bella notizia, evidentemente ci vuole poi il sostegno anche di altre istituzioni superiori, ma è evidente che noi confidiamo nel fatto che la proposta della UEFA vada a buon fine, ma questo non vuol dire che non faremo la manifestazione, perché non riguarda evidentemente soltanto la partita, ma riguarda un gesto di solidarietà nei confronti di un popolo che sta subendo un genocidio. Paola Cortese, TGR Friuli Venezia Giulia. I temi sindacali CGL in Assemblea Udine questa mattina per preparare la mobilitazione nazionale del 25 ottobre sulla finanziaria. Ai lavori hanno partecipato 300 delegati. La mobilitazione sulla finanziaria, con una grande manifestazione nazionale già indetta per il 25 ottobre a Roma, incentrata sulla giustizia fiscale, sui rinnovi contrattuali, sulla sicurezza del lavoro, sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Ma anche l'altra mobilitazione che ha già visto protagonista la CGL con gli scioperi e le iniziative della scorsa settimana e che potrebbe anche portare alla proclamazione di uno sciopero generale. Sono i temi al centro dell'Assemblea Generale dei Territori e delle Categorie della CGL Friuli Venezia Giulia in corso questa mattina a Udine. Circa 400 i delegati che hanno affollato l'anfiteatro. La tragedia di Gaza è stato l'argomento da cui è partito il segretario generale Michele Piga, ribadendo il forte messaggio pacifista lanciato dalla CGL con la mobilitazione della scorsa settimana. Mobilitazione che non si ferma e che potrebbe presto portare a ulteriori iniziative, compreso lo sciopero generale, per chiedere il cessate il fuoco immediato, la protezione del popolo palestinese, l'apertura immediata di corridoi umanitari e una soluzione al conflitto basata sul riconoscimento del principio due popoli, due stati e del riconoscimento dello Stato palestinese. Il tema della pace e del no alle politiche di riarmo segnerà con forza anche la mobilitazione sulla finanziaria nazionale 2026, che per la CGL, ha detto Piga, dovrà essere l'occasione per una svolta nel segno di una maggiore giustizia fiscale come strumento di difesa dei redditi di lavoratori e pensionati. Sotto accusa l'espansione della precarietà e del lavoro povero, ma anche i fenomeni sempre più diffusi come la rinuncia alle cure legata alla lunghezza delle liste di attesa e ai processi di privatizzazione della sanità. Da qui anche la richiesta, al centro di una legge di iniziativa popolare che punta a innalzare dall'attuale 6,2 al 7,5% la spesa sanitaria rispetto al PIL. Tra gli obiettivi della mobilitazione sulla finanziaria anche la restituzione del fiscal drag. Udine, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Le 12:40 minuti, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo variabile su pianure costa, da nuvoloso a coperto in montagna. Temperature delle 11, a Trieste 21 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. A Gorizia 21 e 5 decimi, a Udine 19, a Pordenone 17. Nell'area montana, a Tolmezzo e a Tarvisio 12 e 5, a Sappada 8 gradi, a Forni di Sopra 10, sul Piancavallo 9 e mezzo, sul Lussari 5 e mezzo, sul Monte Zoncolan 5 gradi. Tornando sulla costa, grado 19, temperatura del mare 22,5 decimi, a Lignano 18, temperatura del mare 21. E allora scopriamo che tempo possiamo aspettarci da questo weekend dall'ARPA regionale con Federico Bonaldo. Buongiorno a tutti. Dopo le giornate di maltempo di martedì e mercoledì scorso, il meteo sulla regione è migliorato, seppur in modo lento. Infatti permane ancora molta variabilità un po' su tutta la regione. Anche la giornata di oggi proseguirà con cielo nuvoloso in montagna, variabile sulla pianura, anche se da metà pomeriggio sarà bassa la probabilità di piogge. Per quanto riguarda le temperature di oggi, saranno intorno ai 20 e 22 gradi le massime. Nella giornata di domani, sabato 27 settembre, la situazione non cambierà, ancora sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile e nel pomeriggio e sera saranno possibili delle piogge intermittenti, in genere deboli, forse moderate più sulla costa occidentale. A Trieste dal pomeriggio soffierà bora moderata con raffiche fino a 50 km orari, temperature massime sempre comprese tra 20 e 22 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, 28 settembre, invece ci sarà un miglioramento più deciso, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione. Sulla costa, sulle zone orientali, si intensificherà la bora, che in specie al mattino, quando sarà moderata su queste zone, e anche sostenuta a Trieste al mattino con raffiche fino a 60 km orari. Temperature massime di domenica in leggero aumento fino a 24 gradi in pianura. Si è aperta ufficialmente a mezzogiorno l'edizione 2025 di Trieste Next, la manifestazione dedicata a scienze e tecnologie. Fino a domenica, nel cuore della città, ma anche nei luoghi della scienza, una serie di appuntamenti di alto livello con i migliori divulgatori, ma per ogni tipo di pubblico. Tra gli ospiti della prima giornata, il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, che abbiamo sentito poco fa nei programmi, e David Quammen, divenuto celeberrimo con il libro Spillover, che prefigurava una pandemia come quella che abbiamo poi vissuto. A quelli di Next si affiancheranno gli appuntamenti della Notte dei Ricercatori. Visori tridimensionali che permettono di vedere sott'acqua, joystick per comandare non macchine giocattolo ma rover spaziali, bolle da spostare senza doverle distruggere e quiz che appassionano i ragazzi e li mettono in discussione. Piazza Unità, occupata dalla scienza per Trieste Next, 14ª edizione, come da tradizione il festival della ricerca scientifica in corso fino a domenica, nella prima mattinata si dedica soprattutto ad accogliere le scolaresche in visita agli stand. I giovani ricercatori si mettono a disposizione dei più piccoli, la speranza è di accendere in ciascuno la curiosità verso la scienza, perché le sfide del futuro prevedono giovani preparati. L'Università di Trieste, per esempio, guarda già allo spazio. Far diventare i giovani matti per la scienza è l'obiettivo anche del concorso aperto a tutte le scuole superiori Med for Science della Fondazione di Azorin. La scuola che propone il miglior progetto vince 50.000 euro per la costruzione di un laboratorio scolastico equipaggiato. A giorni apre il nuovo bando. Eppure, nella Trieste, che detiene il record europeo di 37 ricercatori ogni 1.000 abitanti, poche le scuole che hanno partecipato nelle scorse edizioni. Insomma, oltre 100 eventi in questi giorni, da qui a domenica, centinaia di scienziati da tutto il mondo, compresi grossi nomi come David Quammen, autore del bestseller internazionale Spillover, che già nel 2012 aveva previsto una pandemia da assalto di specie, e poi l'americano Brian Kobilka, premio Nobel per la chimica, pochi minuti fa era ospite proprio qui in diretta nazionale dagli studi RAI di Trieste per Radio 3 Scienza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi al convegno Vaccinazioni Numeri e Parole ha ricordato che negli ultimi 50 anni i vaccini hanno salvato oltre 150 milioni di vite e che serve continuare a sostenere la prevenzione. Ha sottolineato come durante la pandemia la politica abbia dovuto schierarsi con rigore al fianco della comunità scientifica e difendere la salute pubblica. Per Riccardi la responsabilità consiste nel dare fiducia a chi opera con competenza e professionalità. Ha richiamato inoltre la necessità di un piano di alfabetizzazione sanitaria e civica contro disinformazione e odio, soprattutto sui social. La Regione ha annunciato destinerà risorse già dalla prossima manovra di bilancio a questo obiettivo. Educare la consapevolezza significa rafforzare le basi della prevenzione, fondamento di ogni politica sanitaria e della responsabilità collettiva. Scende il consumo di tabacco, cresce il ricorso alle sigarette elettroniche, soprattutto tra i giovani. Sentiamo quali sono i rischi, ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione. Esiste un verbo inventato apposta, svapare, è la nuova abitudine di tanti ragazzi. Al posto delle sigarette tradizionali usano quelle elettroniche. Lo dimostra l'ultimo rapporto ESPAD che si concentra sulle dipendenze tra gli studenti europei. Negli ultimi 30 anni la percentuale di quanti hanno fumato almeno una volta nella vita è diminuita di oltre la metà, passando dal 68% al 32%. Ma da almeno 6 anni è cresciuto il fumo di sigarette elettroniche, dal 14% al 22%. Un vecchio vizio, quindi, con un nuovo strumento. Per ora mancano studi definitivi sugli effetti che può avere sulla salute, ma qualcosa si può già dire. Emma Pellizzari, divulgatrice Fondazione AIRC. Quello che sappiamo per certo è che tutti questi dispositivi comunque contengono nicotina, che quindi è quella che crea la dipendenza, metalli pesanti, cioè possono rilasciare metalli pesanti e una serie di sostanze che ad alte temperature riscaldate possono creare formaldeide e acetaldeide, che sono comunque sostanze considerate carcerogene. La forma accattivante, i diversi aromi, i colori piacciono molto ai ragazzi. A questo si aggiungono i numerosi influencer e cantanti che si fanno vedere con la sigaretta elettronica in bocca. Risultato, l'età dell'utilizzo è sempre più bassa. Già dai 13 anni si vede che cominciano a essere utilizzate sigarette elettroniche, tabacco riscaldato, sigarette elettroniche usa e getta, e quindi inizia prima il consumo. E quello che preoccupa di più in questo momento è il policonsumo, quindi l'utilizzo di più prodotti, quindi sigarette tradizionali e sigarette elettroniche o tabacco riscaldato, e quindi questo è un po' la tematica calda. Ai danni possibili per la salute si aggiungono anche quelli per l'ambiente. Questi dispositivi hanno componenti plastici e metallici che andrebbero smaltiti nelle isole ecologiche come un cellulare, ma molti li buttano nei cestini per strada. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oltre 500 flacconi di smalto e gel per unghie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pordenone nell'ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute in due centri estetici. I prodotti sono risultati non conformi alla normativa comunitaria in materia di cosmetici, in particolare al nuovo regolamento entrato in vigore il 1° di settembre, che vieta alcune sostanze finora comunemente presenti in gel e smalti semipermanenti. Denatalità, allarme minimo storico a Pordenone, convegno su educazione sessuale e fertilità, dove emerge un dato inquietante. L'Italia è il fanalino di coda nell'educazione sessuale. Con meno di 1,2 figli per donna e la fecondità al minimo storico, è necessario ripartire dai giovani. Si parla di sessualità e salute riproduttiva al ridotto del Teatro Verdi a Pordenone nel convegno Educare alla fertilità, miti e realtà, organizzato da SIRU, la Società Italiana di Riproduzione Umana, con particolare attenzione a ragazze e ragazzi. Marco Pittino è responsabile scientifico del convegno. Abbiamo un grandissimo problema di denatalità in Italia, che si collega anche al fatto che la ricerca di una gravidanza è procrastinata in età molto avanzata, e questo è un grosso problema che deve essere affrontato, come tendiamo di fare in questo convegno, con l'educazione, quindi con l'educazione sanitaria, l'educazione alla sessualità, sin dalla giovane età. Bisogna cercare di istruire la popolazione, istruire i giovani a costruirsi un'educazione alla sessualità, all'infertilità, alla prevenzione dell'infertilità. Tra i temi toccati, l'educazione sessuale nelle scuole, giudicata insufficiente. La docente Loredana Faidutti. Un rapporto dell'UNESCO, abbastanza recente, che evidenzia che l'Italia è arretrata in questo tipo di educazione rispetto ai paesi del nord Europa. Il fatto che l'Italia sia arretrata è dovuto a delle criticità, che sono innanzitutto il fatto che l'educazione sessuale non sia obbligatoria e che quindi è lasciata alla libera iniziativa delle autonomie scolastiche, al fatto che non ci sia un curriculum verticale che vada dalle scuole dell'infanzia alla fine delle superiori in modo da strutturare un percorso che faccia acquisire consapevolezza. In Friuli Venezia Giulia ci sono delle belle iniziative regionali che però non hanno una organicità e quindi l'efficacia degli interventi non è quella auspicata. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, l'omaggio di Cassacco allo scrittore Carlo Sgorlon, che vi nacque nel 1930, e il museo dedicato allo scrittore, che sarà inaugurato questa sera alle 18.30 con una cerimonia aperta al pubblico. L'esposizione permanente è stata allestita negli spazi del centro civico comunale con la curatela scientifica di Marco D'Agostini e in collaborazione con la famiglia Sgorlon. Il museo propone numerosi documenti originali, manoscritti, prime edizioni, fotografie e strumenti di lavoro. Una postazione multimediale consente di accedere a testimonianze, interviste e alla voce dell'autore dell'Armata dei Fiumi Perduti, che fu premio Strega 40 anni fa. Tra i pezzi in mostra anche una curiosità: la statua in bronzo di Carlo Sgorlon, realizzata da Calogero Condello e originariamente collocata a Udine. L'opera, abbattuta 2 anni fa da un camion in manovra, è stata donata al museo dal comune di Udine senza interventi invasivi, testimoniando dunque anche la vicenda che l'ha segnata. Il rapporto tra musica e montagna negli incontri dal titolo La colonna sonora delle terre alte a Forni di Sopra, la chiesa di Fornes. Tra gli ospiti del pomeriggio alle 14 saranno Alessio Screm, Claudio Mansutti, Andrea Del Favero e il consigliere del CAI Mauro Gaddi. A Pordenone riapre alla Galleria Bertoia la Cyber Book Hall, che ha spopolato durante Pordenone Legge. L'intelligenza artificiale offre la possibilità di dialogare con Shakespeare, Dante, Manzoni, Flaubert e Jane Austen fino al 12 ottobre nei weekend da oggi pomeriggio. Torna L'Asta Malefica, lo show ironico che prende in giro il mondo dell'arte con 40 oggetti eccentrici ispirati al Friuli Venezia Giulia. Le sale dell'Ottagono di Codroip e della Casa del Popolo di Pordenone ospiteranno quadri, ceramiche, giocattoli e vinili reinterpretati con humor e creatività. Ogni pezzo è made in Friuli e realizzato senza l'uso dell'intelligenza artificiale, celebrando l'arte e l'artigianato locale. Il pubblico è invitato a partecipare in abiti eleganti per giocare con il tema della ricchezza e dell'opulenza. Le due sessioni si terranno oggi e domani alle 21 con ingresso libero fino a esaurimento posti, un'iniziativa goliardica con finti quadri di Magritte e Dalì e pupazzi di Carnera. Abbiamo sentito Marco Tonus, ideatore, a cui abbiamo chiesto come si è arrivati a un'iniziativa così goliardica. L'Asta Malefica nasce perché la nostra associazione da anni si occupa di promozione del territorio in chiave soprattutto umoristica e satirica, e è la seconda edizione che facciamo di questa Asta Malefica, e praticamente il pubblico troverà delle opere sia d'arte ma anche degli oggetti molto particolari che in qualche modo raccontano questo nostro Friuli, però in modo sicuramente eccentrico. Chi realizza queste opere d'arte? A chi è venuto in mente di fare un peluche con le fattezze di Carnera? È un lavoro di squadra, con noi collaborano tantissimi artisti, però è un lavoro di scambio dove durante l'anno mettiamo sul piatto, a volte decorato come alcuni di quelli che si trovano all'asta, delle idee e poi insieme le sviluppiamo. Quindi è un lavoro corale con molti artisti e disegnatori del Friuli Venezia Giulia e siamo contenti insomma di poi ogni anno riuscire a trovare appunto una quarantina di oggetti da proporre al pubblico. Tra gli oggetti anche un vinile che raccoglie il suono delle acque, del tagliamento, del noncello e dell'edra. Anche questa è un'idea veramente particolare. È una cosa rarissima perché sono state realizzate veramente solo 5 copie. Abbiamo mandato un nostro fonico lungo questi fiumi, ma anche a Lignano, a Grado, e ha registrato il rumore delle acque della regione, quindi è sicuramente una chicca per i collezionisti o gli amanti da avere e mettere sul loro giradischi. Sono dei pezzi unici, quindi la prospettiva è quella di portarsi a casa qualcosa che nessuno avrà, e quindi questo sicuramente è uno degli aspetti interessanti dell'asta. Lo sport basket stasera con diretta su Rai Sport alle 20.45. Cividale torna in campo per la prima partita in casa del campionato di A2. Dopo la sconfitta di Torino maturata negli ultimi minuti, i gialloblu trovano di fronte Verona, una delle squadre più forti della A2. La squadra di Pillastrini sarà ancora priva di Freeman. Il calcio, la Serie C, Triestina sconfitta 2-0 a Monza dall'Inter Under 23, un gol per tempo per i nerazzurri con le reti di Topalovic al 14esimo e di Camate all'81esimo in una partita sottotono per la squadra di Geppino Marino. Gli alabardati interrompono così la serie positiva, rimangono a meno 12 in classifica, a 14 punti dalla zona play-out a causa della penalizzazione di 20 per inadempienze fiscali. Prossimo appuntamento domenica alle 15 a Rocco contro il Renate. Pallanuoto Trieste che debutta nella stagione 2025-26 al Qualification Round di Champions League in programma da oggi a domenica in Ungheria. La squadra affronterà il Rapallo questa sera alle 19, il Mataró domenica, in palio l'accesso al tabellone principale, mentre la terza classificata scenderà in Eurocup. Calcio in carrozzina, Lignano un terzo posto per l'Italia agli europei, piazzamento che conclude quasi 3 settimane di competizione. È un bronzo europeo che vale davvero tanto, quello conquistato dagli azzurri del Power Chair Football. A Lignano, la nazionale di Marco Ferrazza conquista un risultato storico, battendo il Belgio grazie ad un gol al 7° minuto del secondo tempo supplementare. Da calcio d'angolo l'assist di Simone Ranzato per il tocco vincente di Giovanni Bernabé Capra, l'italiano di Francia, che vive a Parigi e che con l'azienda che ha fondato sogna un giorno di progettare carrozzine. Gli azzurri chiudono al terzo posto dell'europeo, coronando una settimana che li aveva già visti ottenere la qualificazione al mondiale del prossimo anno in Argentina. L'Italia ha ospitato per la prima volta questo tipo di manifestazione che ha portato in Friuli Venezia Giulia 80 atleti e oltre 300 persone in rappresentanza delle 10 delegazioni provenienti da tutta Europa. A vincere il titolo la Francia, già campione del mondo in carica grazie all'1-0 sull'Inghilterra. Per il CT Marco Ferrazza sono stati 20 giorni di emozioni fortissime. Partita dopo partita siamo cresciuti fino a raggiungere un podio importantissimo per tutti noi. Andare in Argentina è un sogno, confessa Ferrazza. Adesso sarà importante prepararci bene per il mondiale. Non siamo persone che si accontentano, abbiamo ancora fame, conclude il CT azzurro. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Stasera alle 19 il podcaster Valerio Moggia presenta il calcio e politica, lo sport come antidoto al nazionalismo, appuntamento alla sala Criscuolo di Cusignacco dove dialogherà con l'assessora Chiara Dazzan. Il collegamento video interviene Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, fondatore del progetto Pallonate in Faccia. Moggia mostra come il calcio rifletta poteri, conflitti, identità, intrecciando sport, storia e politica in un momento in cui la città ospita la partita tra Italia e Israele. È tutto per questa edizione, redatta e condotta da Andrea Saule e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano e Carlo Morello, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Sono le 12:57, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.